Io ci massimo 15.000 lire di palazione, ma quando era che troppo, no, c'era la lira, la roba costava poco, i pezzi. Ma come i pezzi adesso, i finali, ci vuole un patrimonio adesso, le cose sono cambiate. Poi vabbè, adesso la questione dei baracchini è morta, da quando c'è il cellulare, ma culo campa più da baracchino, capito? Una volta c'erano i camionisti, compravano apparecchi modificati, che ci facevano i soldi così, adesso ho notato che i camionisti non prendono manco più in giro, sento che mi sentirai essendo 5-6, non di più, prima era pieno, tra camionisti, tassisti, a Sassari, di tutto era. Anche cosa, Messina, gli impianti li avevo fatti io nel camion, li avevo preso per 5 camion, mi sono ricordo male, intorno alle 70-80 mila lire. Adesso via, potevi anche andare a 100, non te avrebbe detto di no, che di farglielo, bei tempi, dici che si guadagnava. E infatti te lo sto dicendo, una lira era una cosa totalmente diversa, c'era il giro prima, le baracchine, era pieno Sassari, non potevi, tutti i cani erano pieni, non si poteva manco entrare. Adesso se vai a cercare qualche civile devi cercare allogato qualcosa, con la lente di grande vento, ci sono piante da Sassari che ci invita. Ma allora veniva pure in ufficio, tra l'altro accavava due mente, ma ne c'è un uomo, perché qualcuno prendeva per il culo. Allora entravano perché c'erano le donne, a parte Falcone, quindi i canali si riempivano, fino alle 3-4 del mattino, a stare sveglio, cosa era? A volte ho fatto anche alle 7, alle 8 del mattino, io mi... perché... ma ho preso l'abitudine io, Andrea e Giannina e Angelo Delfino di stare tutta la notte a baracchino, mi hanno fatto tutto il giorno, tutta la notte, fino alle 7 del mattino in giro, grazie alla wow, ci sono ogni divertimento, se non c'è neve che facevo. Roba e bollette avete pagato pure un miscellaneo. Quello ero io, 600 watt ogni arrivo. Stasi la pompelle, 600 watt. Poi è già arrivata la bolletta. Mi ha detto, questa bolletta qua, come è così alta? E tu ma è, tu è lo scaldabagno, gli ho detto, mi ammassalo. Molto gli è arrivata. 150 mila lire gli è arrivato. Se diciamo le linee alle mattine sarà sempre acceso. 600 watt. Che sembrava un fornello, sembrava un fornello elettrico in pieno inverno, ma io lo pompavo dalla mattina alla sera, mi 600 watt tutti e tutti. Ma così era troppo però. Ma cazzo, mi sentivano tutti i posti, mi sentivano me. Figurati. Adesso via. Così anche questa cosa sempre in casa. Non è neanche salutare la valvola, me. Quando c'avevo il mio 131, lasciavo la volta acceso, perché la mattina ci volevano 4 ore per scaldare, da dove dovevi via, in massata. Quindi figurati. Io in pazzo facevo in massata via di zitto. Poi mi portavo la farina della pizza. A volte facevo questo di pagamenti in contanti direttamente, mi portavo la farina, la pizza e la birra. Adesso mia, che tempi? Sto parlando di Gianfranco, quello che c'era via Castelletta, già lo conosci. Diciamo la pizzeria a fare la saletta, veniva con la macchina, mi arrivava la roba alle 10:30 di 11 appena chiudeva. Altri tempi erano, e allora si modulava anche forte, quanti amplificatori, di tutto via che sanno. Sì, sai quanti 550 mi sono passati in mano? 5,52, cosa, 12,24, 17,50, ne ho fatto di riparazioni, intorno al 4,005, 3,009, poi sì, quei famosi ultimo dei tre, ultimo dei due, Viking, eccetera, eccetera, un sacco di... c'è una casa piena, il toccai. Quando sono venuto a casa, lei come si è trovato tutta quella roba, con peso di niente acceso, mi ha detto, e questa roba cos'è? E detto, questa è la roba mia, gli ho detto, questa è la roba mia roba da riparare. Mi hanno messo 80.000 lire di verbale, ce l'ho ancora il verbale, quando ci vediamo, se mi sembra che l'ho conservato qualche cassetto, te lo faccio leggere, apparecchi non omologati in concessione. Pure, ma tu ce l'avevi la ricorda da tecnico? Sì, diploma sì, e l'avevo appena preso. Sono stato fortunato che l'avevo preso giusto giusto fatto, quando è arrivato l'escopo so c'era un diploma, si è attaccato a pompa, si è attaccato. Lo sai che non ti avrebbe dovuto fare neanche una contravvenzione, perché tu stavi riparando. Sono sceso a Cagliari io, se per questo. Insieme a Andrea Malicorio e Angelo Del Fino siamo scesi a Cagliari a parlare con questo tipo delle poste. Si chiamava Dottor Vizzi, si chiama. Adesso ci avrà uno, penso una tantina d'anni, con gli occhi celesti. È stato in gamba. Io ho parlato con lui perché quando ero in sala d'aspetto c'era un parino del Palmarola, dice a me non me ne frega niente di quello lì, se portatevi via, se acquistate tutto mettete 1,5 milioni di multa, e gliel'hanno messo. Ma te non ti potevo fare niente, perché se sei tecnico alla professione devi riparare con gli apparecchi e quindi non ti potevo ne fare nulla. Cioè, perché io le sto riparando, poi non sono cazzi miei. Sì, vabbè, comunque il verbale me l'ha fatto, me lo sono pagato, me l'ha fatto due o tre. L'ultimo ha pagato il verbale, 80.000 lire, ma non si fregava niente. E 6 mesi di sospensione della licenza me l'ha fatto. Quindi figurati. Ma io mi duravo lo stesso. E tutti i giorni c'avevo il furgone sotto a casa, e tutti i giorni, mattina e sera, si piazzava lì e cominciava a controllare tutte le macchine, dei cibi che venivano, dei camionisti. A posto di andare a cercare in autostrada veniva sotto casa mia, perché i cibi venivano tutti lì al bar. La concessione ti aveva respinto. E allora? Poi c'avevo l'effetti 250 avevo fatto, che avevo messo, visto che quegli affari di omologazione dei portati li vendeva la UPIM, l'avevo staccato la residua da dietro, ci avevo messo dietro l'effetti 250 decametrico, faceva la 3 a 30 se non mi ricordo male, a valvole 100 watt d'uscita. Mi ha fatto accendilo, così lo provo. Ho detto, aspetta che te l'accendo. Quanto ti fate tirare? Ho detto 100 e tira fuori. Non me l'ha manco toccato la casa, nulla, non me l'ha manco sequestrato. Però tu all'epoca mi sa che potevi fare anche la... addirittura, boh, non lo so, forse mi pare che i tecnici esami non ne davano, se uno era tecnico professionista, la cosa da radioamatore mi sa che li davano. No, con la ditta Valerina prima non te lo davano. Vittorio ha dovuto fare l'esame a Cagliari, anche lui aveva fatto la scuola così, capito? Quindi ci voleva fare l'esame. Solo che ha fatto che era industriale, non aveva bisogno di niente. Vabbè. Comunque già siamo, cioè, qualcosa potevi fare. Perché tu, io da una radio devo ripararle. Cioè, da lì lui non so per quanto potesse fare la contravvenzione, per quanto si poteva rompere le balle. Tu c'è qualche diploma, come che eri tecnico e stai facendo la tua professione. L'unica cosa che non ho fatto, vedi, quando ho lavorato con Marco Vicchi, siccome usavo molto spesso il VHF per fare le installazioni di punti radio, eccetera, eccetera, da farmi fare un foglio da lui e da mettere a Cagliari per darmi da, come si chiama la, senza fare nessun esame, vedi, così l'avrei potuto fare, invece non ci ho pensato. Io facevo le pazze, parlavo tranquillamente in VHF con la operatore serario, eccetera, eccetera, c'aveva il nome da TV mio, c'avevano nome e cognome mio, nome da TV mio, quindi figurati tu. L'ATP, gli apparati li avevo installati io, ho preso anche il potere di Via Umberto, capito? E chi mi brusci, lì un sacco di soldi, cioè penso che ti sei fatto pagare bene per fare quell'installazione. Sì, per quello che mi ha pagato bene Marco, non posso dire nulla, anzi sono andato anche a pensare a Cagliari, vicino a Cagliari, a Calassetta, sono andato a installare il VHF e cose vicino al Bari. Uno l'ho piazzato in una Vespa 50, perché usava la Vespero. Lì, ti erano lì che c'è la storia. E te lo so con i zendi. Ne ho installato di roba io. Rodriguez. Chissà quante grazie voci è andata a fare. Parola che coppio. Io! No, l'unica cosa che mi ha... si è scoppiata quando lavoravo con cosa, con Prospero, sai cos'era? Lineare da... da 600 da me pare, l'ho cambiato con il sattore, cazzo, l'ho piazzato, l'ho acceso, oh, che bello, gli ho detto, sta funzionando, sono passati 4 minuti e intendo, boh, cazzo, cosa cazzo c'è, tutto bianco, il laboratorio, un fumo di acido, allora sono partiti con il sattore, mi detto, che cazzo, detto, cosa cazzo mi ha dato fusato, gli ho detto, se li ho messi nuovi. Non c'ero io, no, ma mi ero spostato, sono andato fuori a bere la birra al bar, c'avevo il bar a fianco, al laboratorio, in via Cosicetta. Ma da avanti che non funzionava, non fusaro. Ah, no, avevo due condensatori che sembravano nuovi, invece era stata roba vecchia. Sono esplosi dopo un po'. E i buoni di petto in fabbrica pure. Ma lì era solamente acceso, senza entrare, ma è importante, figurati tu. Allora, sta acceso quasi, ah che bello, sta funzionando, tutto a posto. Esco fuori, adesso esco a lavare il valore e poi lo provo perché c'avevo il barattino lì con la Grand Prix. Invece domani... Ciampa, ma non ce l'avevo fatto il laboratorio. E via Polizia dall'inizio prima. Dove c'è l'autocambista di pezzi per auto adesso. Ah, ho capito. Via Polizia, No, via Polizia. Dove c'era via Polizia? Sì, dove c'era, poi da lì ci eravamo trasferiti più su, dove c'è il giornalaio. Adesso via. E altri tempi erano. E beh, ce lo credo, è anche più male, lo so per questo. Quando salivo sul palchetto sembrava un cosa, adesso col cazzo ci salgo così sul palchetto, come prima. Ci potevo anche ballare, la samba. Vabbè, più giovane era quella mia. Quanti anni c'erano? Più di 20, 30 anni di meno. E ce lo credo. Altri tempi. Beh Antonio, io mi addormento, cioè sono stanco. Ciao, buonanotte, ci risentiamo. Io, ciao Anto, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao ciao, magari già mi sentirai su, eh. Sì, d'accordo, io anche con me. Tanto, domani ti devo andare un attimo da Nico. Prima di andare, facci a passare da Nico, bevo due birre e poi salgo a casa. Ok, ciao ciao. E via, ciao. Ah, passa qualche giorno al monte che ci beviamo una birra. Già ci passa, mi ha invitato anche cosa mi a andare. Il figlio di Tore Sagittario ha riaperto il nuovo circo, mi ha detto, giù passa Antonio, mi ha detto così ti lo farò bene, mi ha detto che ho riaperto il nuovo circo di Papi Babbo, dice, della brava il babbo che è morto, già lo so, gli ho detto che è morto. mi ha detto che c'è tutto in mano lui, aveva aperto lui e mi ha detto di passarci. Adesso c'è vado lì in via, come si chiama, via Mula, delle Mura, non mi ricordo adesso, di fronte a Corso Vico. Ho capito. Va bene, dai. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Sì, ciao, ciao, ciao.